Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. No, non ci sono. Il programma, buongiorno a tutti, il programma prevede di parlare di quello che veramente interessava al Saladino, di scismi a sinistra, nonché di musei da evitare.